Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:08 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo da un lato di quanto scoperto oggi dal Sole 24 Ore, ossia vi sarebbe una specie di lista Falciani ancora segreta con i nomi di migliaia di presunti evasori fiscali italiani, con elenchi di nomi custoditi dalla magistratura spagnola. L'inchiesta del Sole 24 Ore è ancora in pieno sviluppo, ne parleremo tra circa mezz'ora. L'altro tema di oggi riguarda anche le preoccupazioni che arrivano da molte imprese e anche da molti economisti sulle nuove regole di cui l'Europa si sta sostanzialmente facendo garante su Basilea 3. Ora, Basilea 3 può sembrare un tema molto tecnico, in realtà è meno tecnico se si va a dire che la cosiddetta leverage ratio, lasciamo stare i tecnicismi, insomma, le nuove regole poste per le banche europee sembrerebbero avvantaggiare le esigenze delle grandi banche del centro-nord dell'Europa e penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese. Allora, si darebbe la possibilità di indebitarsi alle banche, pensiamo al caso di Deutsche Bank che aveva debiti pari a 50 volte il capitale, alla faccia del rigore tedesco, sono livelli mai visti neanche dai fondi speculativi. Sembrerebbe avvantaggiare le banche, la loro capacità di indebitamento e non invece i prestiti alle imprese. Questo mentre in Europa, e qui riprendo invece il commento, l'editoriale di oggi di Adriana Ceretelli sul Sole 24 Ore, mentre a questo punto con anche la riforma francese l'Italia è l'unico paese rimasto tra quelli messi peggio, mi riferisco a Spagna, Irlanda, Portogallo, a non aver ancora fatto nulla in tema di riforme vere e proprie. Non è una critica al governo Letta in senso stretto, però è anche una critica al governo Letta che ha sicuramente altri problemi, il rimpasto e quant'altro, però è vero che insomma, perfino la Francia, la riluttante Francia di François Hollande, anche lui ha altri problemi, cioè, però ha messo mano a una riforma diciamo che andrà a toccare l'aspetto fiscale francese. Beh, insomma, noi qui siamo ancora a ragionare su quanti soldi verranno dati alle imprese che le aspettano, i famosi 16 miliardi sui 47 concordati, su 100 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, e siamo ancora a ragionare su la competitività delle imprese che parte anche, diciamo, dalla pressione fiscale. Ora, la Francia ci mette mano perché il paese è messo peggio dopo l'Italia. Il carico fiscale sulle aziende in Francia è del 64,7%, in Italia del 65,8%. Pensate che in Spagna, non dico neanche in Germania dove è il 50% il carico fiscale sulle imprese, ma in Spagna è al 58%, cioè sono 4,6, sono 8 punti percentuali in meno. Ancora, per quello che riguarda i tempi di lavoro, le ore che servono per pagare le tasse in Italia, gli adempimenti fiscali, insomma, in Italia ci vogliono 270 ore contro le 130 ore in Francia o le 160 in Spagna. I giorni per ottenere un permesso di costruzione in Italia sono 233, in Francia sono 180, in Germania sono 97. Chiudo con la classifica, così mi ricollego anche al primo tema di dove è più facile ottenere prestiti dalle banche. La classifica è stilata dal Doing Business, il dato è quello del 2014, una classifica internazionale. La Gran Bretagna è al primo posto, la Germania al 28°, la Francia e la Spagna al 55° come disponibilità di credito da parte delle banche, l'Italia è al 109° posto. Ora, io con questi numeri, con queste posizioni nella classifica, se non si capisce che una riforma forte è importante per aumentare la produttività, non serve continuare con questa cavolata dell'uscita dall'euro. Vedo che ancora Bagnai scrive, ma studi, non scriva. No, cioè, il problema vero è che dal 1999 la produttività italiana, che era in linea con quella francese e tedesca, inizia a calare inesorabilmente, anche un po' prima, a dire il vero. Però insomma, ed è 12 anni che continuiamo ad avere un calo della produttività, non esci senza riforme, liberando risorse, rendendo più facile anche l'avvio di un'attività di impresa, le assunzioni, non penalizzando le imprese che assumono, insomma, lì si genera ricchezza e redistribuzione di reddito. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, perché vorremmo che fosse un punto in agenda, visto che tutti iniziano a prepararsi alle elezioni europee. Faccio notare che oggi il Financial Times critica, io devo dire sono d'accordissimo, il fallimento delle élite europee, che è il vero fallimento del progetto, della capacità delle élite europee di governare l'Europa, che sta minacciando il futuro dell'Europa stessa. E qui va data una responsabilità grossa, non all'euro poverino, ma a chi questo euro l'ha gestito. Mi riferisco ai banchieri centrali, ma non solo, mi riferisco anche agli euroburocrati, ai vari commissari europei. Insomma, per favore, siamo seri e restiamo su chi in questi anni non ha saputo governare un processo, perché di questo stiamo parlando, forse anche arroccandosi su posizioni un po' elitarie, un po' così, che capivano in 1000, in 2000, in 5000, mentre poi il resto dei cittadini dell'area euro andavano in un'altra direzione. Volete sapere dove ho trovato questi dati comparativi? Ripeto, l'indagine Doing Business, ma anche la fonte Confindustria, li reperite sul sito di Doing Business e sul sito di Confindustria, del centro studi Confindustria. Parleremo anche, ahimè, degli sprechi, perché oggi veramente non c'è vergogna con tutto quello che sta capitando, con le indagini fatte alla regione Sicilia, con gli indagati, praticamente i capigruppo dei vari partiti, è insorto solo il Movimento 5 Stelle, si sono dati 1.160 euro lordi al mese in più sotto forma di indennità di funzione. Sapete perché? Perché in sostanza veniva ridotte le disponibilità sulla base anche della decisione del loro governo Monti, e quindi si aggira la clausola del governo Monti dando un'indennità più alta. Se vogliamo continuare così, poi non lamentatevi dell'antipolitica. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo dalla borsa, che oggi è debole, perde un punto percentuale Milano dopo aver toccato ieri i livelli più alti dal luglio del 2011, debole anche Parigi, meno 0,30, Londra invariata, Francoforte meno 0,12, l'America perde lo 0,60%. Per quello che riguarda i titoli, bene Fiat più 3%, Pirelli più 1,80, Unipolsai più 1,60, Prismian più 1,30, Buzzi Unicem più 0,80, Gitec più 0,70, male tutti gli altri bancari, Banco Popolare meno 3,5%, oddio, con il dato di ieri, con il livello di ieri, oggi qualche realizzo ci sta, Banco Popolare meno 3,60, Mediobanca meno 3,40, Intesa San Paolo meno 3, Pop Emilia Romagna meno 3, Unicredit meno 2,40, Ubibanca meno 2,30%. Le notizie di carattere internazionale, allora, gli utili delle grandi banche d'affari americane, Goldman Sachs meno 21%, però a 2 miliardi 250 milioni di dollari, i risultati del quarto trimestre sono comunque migliori delle stime degli analisti, Citigroup l'utile sale a 2 miliardi e 700 milioni di dollari, anche se il quarto trimestre è andato meno bene di quanto non si attendessero gli analisti. dell'economia internazionale, vale la pena notare che la banca centrale brasiliana, il Brasile sta crescendo moltissimo anche se ha avuto una frenata l'anno scorso, ha aumentato i tassi di interesse per la settima volta consecutiva. Il Selic, che è il tasso di interesse in Brasile, a questo punto è stato portato dal 10 al 10,5%, sempre per i rischi di un surriscaldamento dell'economia brasiliana e di un'inflazione. Mentre non abbiamo questo problema in Europa, nel senso che noi siamo in deflazione o comunque non inflazione, e la stessa Banca Centrale Europea oggi dice che la ripresa nel 2014-2015 sarà lenta, anche se vi sarà un miglioramento della domanda interna, cioè dei consumi. Restano comunque tutti i rischi a ribasso per l'economia dell'area euro. Dai mercati finanziari e monetari provengono infatti ancora incertezze sulla qualità e l'intensità della ripresa. Il mercato auto in Europa nel mese, il dato in realtà è sul 2013 con gli ultimi dati di dicembre, ha fatto meno 1,8% nell'anno che si è appena chiuso, con 12.308.215 auto immatricolate in tutta Europa. Però ha avuto un recupero molto forte a dicembre, ripeto, sempre in Europa, più 13%. Nel complesso Germania meno 4,2%, Francia meno 5,7%, Italia meno 7%. La Spagna ha recuperato nelle immatricolazioni auto più 3,3%, un altro segnale di una così nuova vitalità, forse ancora presto per dire definitiva, della Spagna. La Gran Bretagna più 10,8%. La Fiat nel 2013 ha ridotto le sue vendite, le sue immatricolazioni del 7,3%, ebbene nel mese di dicembre più 2,3%. Devo dire che è stato un anno deludente per Fiat, appunto meno 7,3%, ma anche per Peugeot Citroën meno 8,5%, buono invece per Renault più 4%, invariato per Volkswagen meno 0,8%, negativo per Ford meno 3,6%, invariato anche per BMW, Opel leggermente in calo meno 1,5%, Daimler Chrysler più 4%. Daimler. E la quota Fiat a dicembre è scesa a livello europeo al 5,5% del totale. Spostiamoci in Italia. Il commercio con l'estero. Allora, il dato è buono nel senso che le importazioni, essendo i consumi fermi in Italia se non in calo, le importazioni continuano a calare, meno 7% quasi in novembre, però è calato anche l'export, meno 3,4%. Siccome calano più le importazioni delle esportazioni, il saldo commerciale resta positivo. La differenza tra quanto importiamo e quanto esportiamo è a vantaggio delle nostre esportazioni, ancora per 3 miliardi e 100 milioni. Se levassimo la voce energia, la voce petrolio e gas, avremmo una bilancia commerciale in positivo per 7 miliardi. Bene le nostre esportazioni in Germania, più 2,5 rispetto a un anno prima. Male in Francia, meno 4,5, in Spagna meno 7. Nei paesi OPEC invariate, in Russia in calo dell'1,7%, in Gran Bretagna più 2%, in America più 2%, negative di un 3% le nostre esportazioni a novembre rispetto a un anno prima sia in Cina che in Giappone. I dati di Equitalia nel 2013 riscossi 7 miliardi di euro di evasione, portando il totale dal 2006 a 55 miliardi, però c'è un calo del 5% rispetto al 2012, anche perché pesano la crisi e alcuni interventi normativi con cui si è inciso profondamente sugli strumenti di Equitalia. Il ministro Saccomanni, che ha definito la mini la mini IMU, una tassa equa, vale meno del 10% di quanto altrimenti dovuto con l'IMU, e il 24 gennaio è l'ultima data utile. Di questo obbligo di versamento entro il 24 della cosiddetta mini IMU risponde a diverse motivazioni. In primo luogo, al momento dell'approvazione del decreto legge non era quantificabile con esattezza il gettito connesso con l'autonomia impositiva dei comuni e non era opportuno che lo Stato si assumesse un onere di entità non nota. In secondo luogo, l'obbligo del versamento riferito alle aliquote e alla detrazione di base anziché a quelle del 2012 riflette l'esigenza di dare copertura solo parziale e eventuali aumenti ad hoc delle aliquote. Viene inoltre assicurato un trattamento equo dei contribuenti, non discriminandoli in base alla tempistica con cui i comuni sono intervenuti sul tributo. E in terzo luogo, per finanziare uno sgravio completo, avremmo dovuto reperire in tempi oramai veramente brevissimi ulteriori risorse da contabilizzare nel 2013 in modo da rispettare il limite del 3% del PIL. La scadenza del versamento, come ho detto, è fissata al 24 gennaio, ultima data utile per consentire la contabilizzazione delle entrate nel 2013. E poi il ministro Saccomanni è intervenuto anche sul Monte dei Paschi. Non è stato fatto alcun regalo al Monte dei Paschi, non è un aiuto a fondo perduto, ma un prestito sul quale la banca paga un interesse del 9%. Un tasso penalizzante per rendere più forte il processo di risanamento. E questo è l'intervento del ministro Saccomanni sui prestiti statali, i cosiddetti Tremonti Bond e poi Monti Bond, precisando che comunque a Siena la tutela del risparmio è garantita. Ricordiamo che il livello di intervento pubblico a sostegno delle banche in Italia si misura in una frazione di un punto percentuale di PIL, laddove è stato di diversi punti, anche in casi decine di punti di PIL in paesi come la Germania, la Francia, il Belgio, l'Olanda. Lungi dall'essere un regalo da parte del contribuente a una banca, è un tasso penalizzante che mira a rendere più celere e più forte il processo di ristrutturazione e di risanamento della banca. E la polemica sulla dichiarazione del presidente Profumo nell'intervista di ieri continua, perché oggi, dopo il presidente della Fondazione Cariplo Guzzetti, è intervenuto anche il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, che ha detto: sono assolutamente d'accordo con il commento di Guzzetti, non vedo nessun rischio per il sistema bancario italiano da un eventuale fallimento dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena. Certamente ci auguriamo che ciò non si verifichi, ma comunque un eventuale fallimento dell'aumento di capitale non avrebbe quelle conseguenze che sono state paventate dal presidente Alessandro Profumo. Spostiamoci invece in Emilia, perché il dato diffuso oggi da Confindustria sul fondo di solidarietà attivato da Confindustria e sindacati per le popolazioni colpite dal sisma del 22-29 maggio dello scorso anno, ricorderete, ci siamo mobilitati anche noi nel nostro piccolo in prima persona, siamo andati a trasmettere da Mirandola poi alcuni programmi per capire cosa succedeva con i finanziamenti. Allora, dicevo, sono stati raccolti complessivamente 7,7 milioni di euro. Nel fondo interconfederale sono confluiti i contributi dei lavoratori pari all'equivalente di un'ora di lavoro e da parte delle imprese pari alla somma dei versamenti dei propri dipendenti. Un segnale straordinario, secondo il presidente degli industriali Giorgio Squinzi. Ascoltiamolo al microfono del nostro Andrea Viali. Quello che è stato presentato oggi è un segnale straordinario, che quando c'è la concordia del paese, lavoratori, imprese e pubblica amministrazione, si possono fare delle cose straordinarie, e questo è un esempio virtuoso di cui dovremmo tenere conto per ritrovare anche una vera crescita nel nostro paese, non solo sperando che non questo concordia non sia determinata solo da eventi luttuosi come un terremoto, ma che sia il modo di fare quotidiano per tutti noi. Il presidente di Confindustria Squinzi è anche tornato sul tema di una misura definita catastrofica per la competitività del sistema manifatturiero italiano, ossia la riduzione della CO2 del 40% nei tempi previsti, è definita irrealistica. La lettera che abbiamo inviato al Presidente Letta, peraltro non solo al Presidente Letta ma anche al Presidente Barroso, non è che aspettiamo una convocazione, siamo sempre pronti comunque a parlarne, però è una presa di posizione molto netta, molto chiara, che questo limite del 40% di riduzione della CO2, delle emissioni di CO2, del 40% in più di efficienza e del 40% di energie rinnovabili sarà catastrofico per la competitività del sistema manifatturiero italiano. Allora, mi fa notare un ascoltatore che non ho dato da alcuni giorni oro e petrolio, va bene, lo diamo volentieri, per quello che riguarda le variazioni l'oro è a 1242 dollari l'oncia e il petrolio 93,9 dollari al barile, sono poco mossi onestamente da intere sedute. Allora, parte l'operazione trasparenza alla Presidenza del Consiglio. Sul sito del Governo saranno rese note le sovvenzioni e i contributi concessi dalla Presidenza del Consiglio, le spese per i viaggi delle autorità politiche, i trasferimenti a favore delle regioni, i dati sugli appalti e sui contratti relativi agli acquisti di beni e servizi. Va bene. Intanto, come i nostri GR vi hanno raccontato, la Procura di Torino ha chiesto un rinvio a giudizio del Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cotta, per l'inchiesta sull'uso di fondi di gruppi consiliari e stesso provvedimento, quindi rinvio a giudizio anche per 39 consiglieri. L'inchiesta complessivamente ne ha coinvolti 56. Sono usciti dall'inchiesta invece l'ex Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, e il capogruppo di Sel Monica Cerutti. Per quello che riguarda la Liguria, allora è questione di giorni, ma quando la Presidenza del Consiglio regionale arriverà la notifica del provvedimento della magistratura che ha deciso gli arresti domiciliari per Niccolò Scialfa, Scialfa sarà sospeso dalla carica di consigliere regionale e non riceverà più l'assegno mensile. Ci mancherebbe pure, al massimo potrebbe ricevere 4/10 degli emolumenti che normalmente avrebbe percepito ogni mese. Ora uno dice poverino, mica tanto, perché Scialfa, ex esponente dell'Italia dei Valori e ora di Diritti e Libertà, accusato, adesso ne parliamo, in realtà in questo modo riceverà comunque un assegno sui 2.200 euro al mese, che per un normale cittadino sarebbe un assegno più che dignitoso, nel senso non è un bello stipendio, non è un grande stipendio, ma è un assegno più che dignitoso. Certo, se sei abituato a viaggiare tra i 7 e 8 mila euro netti al mese è poca roba, sono d'accordo. E poi invece qui arriviamo alla parte più, io non so più cosa fare, io capisco, cioè, ma le frequenze di Radio 24 non si prendono in Sicilia? Mi risulta che si senta molto bene a Palermo, a Catania. No, lo dico perché mentre la Guardia di Finanza continua a passare al setaccio le carte sulle spese pazze, le raccontiamo da mesi, della Regione Sicilia, dell'Assemblea regionale, per capire se quei 10 milioni di euro spesi da 97 deputati in borse, cravatte, gioielli, vini, caffè, e c'era, non me l'avete messo oggi il numero uno, secondo me, da Nobel all'economia, che aveva messo nei rimborsi anche 67 mila euro di tasse da pagare all'Equitalia siciliana, cioè lui si faceva rimborsare come spese consiliari le tasse da pagare. Io dico Nobel all'economia, cioè è il modo in cui facciamo ripartire il ciclo economico. Attenzione, non c'hanno ancora, non ho capito bene a Stoccolma, ma se tu scarichi sui cittadini le tasse che devi pagare è il massimo e te le fai dare come rimborso elettorale, cioè è fiorito un dilettante a sto punto. Comunque, mentre abbiamo raccontato di tutto, addirittura il battesimo Nino Strano, il battesimo mette a rimborso i soldi spesi per il regalo, il battesimo del collega, ma cose indegne. Non voglio tornare su cose anche tenere come quelle che raccontavamo ieri di chi ha messo a rimborso spese perfino il mini orsetto in peluche. Però dico, mentre la Regione Sicilia è travolta da un'inchiesta che riguarda la precedente giunta, ma l'accusa è grave, 10 milioni di euro di rimborsi, sapete cosa hanno fatto? E la denuncia arriva e gliene diamo atto dal Movimento 5 Stelle. Tutti i partiti avrebbero infatti aumentato lo stipendio ai capogruppo di 1160 euro lordi al mese sotto forma di indennità di funzione. Fino adesso i capigruppo non godevano di questa retribuzione aggiuntiva, ma era un'ingiustizia grave e pesante, e adesso siamo tutti contenti. Per esempio, il presidente dell'assemblea Giovanni Ardizione riceve, attraverso questa voce, 2.700 euro al mese. I presidenti delle varie commissioni incassano come indennità aggiuntiva 1.160 euro al mese, i loro vice 300. Ora, a questo punto, anche i capigruppo ne avranno diritto. E sempre sulla Regione Sicilia, faccio notare che ieri, avendo fatto più di 40 minuti su questo, qualcosa ci è sfuggito, però due sere fa, di sera, notte tempore, l'Assemblea Regionale Siciliana ha inserito anche un bando per l'affitto di 7 nuove auto blu dal costo totale di 1.300.000 euro per 4 anni. Non mi sembra pochissimo. Cioè, sono 300.000 euro... Vabbè. Sono 6 automobili destinate alla presidenza e una destinata alla sede distaccata dalla Regione Sicilia a Bruxelles. Ma già avevamo detto che non serve, dovete chiuderla quella sede. Ma che cosa ci fa la sede della Regione Sicilia a Bruxelles? Fate l'unica sede delle regioni italiane, dividete gli affitti con tutti, Basilicata, Sicilia, Lombardia, Veneto, no. Pensate che il parco auto della Regione Sicilia, dice, magari non hanno obiettivamente auto, no, è il più numeroso d'Italia, è composto da 763 mezzi. In Campania, dove non è che proprio siano a risparmio, sono 216. È bello che il bando che hanno fatto, Crocetta, la prego intervenga, si prende gioco anche della norma che prevede il divieto di utilizzare auto con cilindrata superiore ai 1600 cc. Perché le nuove macchine, ecco perché il costo, dovranno avere 2200 cc di cilindrata, potenza minima di 170 cavalli e cambio automatico, che costa fatica. Vabbè, torniamo su questo dopo il meteo, ma parliamo anche di quanto scoperto sulle 24 ore oggi, ossia una presunta lista Falciani di grandi evasori fiscali in mano alla magistratura madrilegna. Sette e 40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non voglio stare sulla Sicilia anche oggi, però do un suggerimento, visto che abbiamo ricordato che è stato il Movimento 5 Stelle a far scoppiare uno scandalo. Lo scandalo è che i capigruppo si diano 1160 euro a capogruppo, perché faccio notare che a Palazzo dei Normanni già I gruppi diciamo, politici si fanno rimborsare le spese del bar, per cui non so, il Movimento per l'Autonomia è 42.000 euro al bar, 70, il PDL 73.000 euro in un anno, l'UDC 17.000, il gruppo del PD si è fatto rimborsare anche 50.000 euro spesi in panettoni, e mo volete pure 1.160 euro. Io dico una cosa, Matteo Renzi, lei che, lo dico in maniera molto così asettica, rappresenta il nuovo, alla fama di rottamatore. Allora, lì c'è una persona che si chiama Faraone, che, se non ho capito male, Davide Faraone è anche deputato nazionale del PD, ed è stato messo da lei come responsabile del welfare nella nuova segreteria di Renzi. Allora, Farone oggi ha detto che se serve si dimette, gli ha detto che non si sarebbe dimesso, oggi ha detto se serve faccio un passo indietro. La procura gli contesta 3.400 euro, non è una grandissima cifra, però proprio perché dovete rappresentare il nuovo, fa un passo indietro, quando cadranno le accuse si ricandida con la coscienza pulita, immaginiamo che sia estraneo, ma con questo miasma dell'Assemblea regionale siciliana non conviene, perché sennò Renzi è difficile andare avanti il ragionamento su questo, e chieda anche appunto ai vari, cioè chi guida i partiti dell'Assemblea regionale siciliana, si chiamano per il PD Gucciardi Baldassarre, per i 5 Stelle Cancellieri, e non ha in questo caso responsabilità, Unione di Centro e Calogero Firetto, il PDL verso il PPE Antonio D'Asero, il Partito dei Siciliani il Movimento per l'Autonomia si chiama Giovanni Di Mauro, il Grande Sud PID si chiama Salvatore Cordaro, e poi il megafono di lista Crocetta Giovanni Di Giacinto, l'articolo 4 Luca San Martino che non ha grosse responsabilità, e gli altri. Chiedete ai vostri responsabili siciliani, a partire da Renzi col PD, di cambiare passo, perché non se ne può più. O dobbiamo ricordare ancora i 14.000 euro spesi da Livio Marocco, ex capogruppo di Futuro Libertà, tra pranzi, acquisti di pasta fresca, profumi, occhiali, lavanderia, e i 180 euro per i fumetti di Diaboli, che la revisione del motorino, messa anche la revisione del motorino. O l'UDC Giulia Adamo, scicchissima, 440 euro da Louis Vuitton, 1.400 euro da Hermès, 1.700 euro per il regalo di nozze al figlio di Nino Strano. Angelo Mincuzzi, aiutaci tu, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Chissà se in questa lista Falciani, adesso no, la battuta è troppo facile, che voi con le Sole 24 Ore avete scoperto essere nelle mani dei magistrati di Madrid, c'è anche qualche politico nazionale o regionale, questo non lo so. Possibile, però, è possibile. No, questo non lo sappiamo veramente. Allora, Falciani, vi ricorderete, era la famosa lista che fece impazzire gli evasori fiscali di mezza Europa, francesi ma non solo, che fu trafugata da un ex dipendente di un'importante banca svizzera, e da lì partì veramente il pandemonio, tra l'altro con, come raccontavamo anche ieri, con un intervento degli Stati Uniti molto duro nei confronti del segreto bancario svizzero. Di che si tratta e perché ce l'hanno in mano i magistrati spagnoli? Dunque, si tratta di una lista che potrebbe contenere delle novità interessanti. È una lista di più di 120.000 conti accesi presso questa banca nelle filiali di Monte Carlo, del Lussemburgo, di Lugano, di Zurigo e delle isole del Canale della Manica, cioè Jersey e Guernsey, che sono noti paradisi fiscali. È una lista, come dire, più che una lista, è un calderone di materiale di file, dove dentro c'è di tutto, da cui poi dovranno essere estratti i nomi, come accadde già nel 2010 per la prima lista Falciani. Perché ce l'hanno? Quanti sono in tutto i conti di presunti evasori italiani di altri paesi? Allora, in totale sono circa 120.000, un po' più di 120.000. Non sappiamo quanti siano gli italiani, ma potrebbero essere migliaia. Considerando che Monte Carlo è una destinazione molto gettonata dagli italiani, Lugano è praticamente tutta italiana. Vabbè. E probabilmente scopriremo qualcosa anche in Lussemburgo. L'indagine riguarda, quindi, se ho ben capito, HSBC Private Bank soprattutto, o anche altre banche coinvolte? Riguarda soltanto la HSBC Private Bank. A dimostrazione che, insomma, vabbè, non voglio generalizzare, però questo potrebbe, che anche queste banche svizzere ogni tanto i soldi li fanno e sappiamo come, così ho generalizzato. Mi dici una cosa, questo come potrebbe intervenire nel prossimo incontro, ne abbiamo parlato ieri, tra il Premier Letta e il Premier svizzero? Si terrà, infatti, lo riportava sempre al Sole 24 Ore, si dovrebbe arrivare a un accordo in un paio di settimane per quello che riguarda il pagamento integrale delle tasse e uno sconto invece sulle sanzioni dei depositi di italiani in Svizzera, sono 180 miliardi stimati. C'entra qualcosa oppure questo non entrerà mai in un eventuale accordo? Allora, io non so se entrerà mai in un eventuale accordo, però questa vicenda sottolinea l'importanza di trovare una soluzione al problema dell'evasione fiscale. È un problema enorme, vengono sottratte ogni anno risorse importantissime, soprattutto in questo momento, che potrebbero andare nel tantissime cose in questo paese. Quindi il fatto che si scopra adesso una nuova lista con altre migliaia di presunti evasori fiscali italiani non fa altro che far capire che il problema deve essere risolto, non è più possibile andare avanti così. Ecco, visto che tu hai scoperto questa cosa, non ti chiedo chi ti ha dato le carte, ma chi te le ha date? Non te la devo mai. Quali sviluppi tu riesci a intravedere? Perché a questo punto è chiaro che se si è mossa la magistratura, immagino forse qualche PM italiano chiederà una rogatoria di documenti a Madrid e poi? Allora, ecco, gli sviluppi ci potranno essere soltanto se i PM italiani si muoveranno, chiederanno questo materiale a Madrid, il materiale arriverà in Italia e verrà analizzato. Ci vorrà molto tempo, probabilmente ci vorrà anche la collaborazione diretta di Falciani, che sta già collaborando in questo senso sia a Madrid sia a Parigi, ma in questo momento non in Italia perché non gliel'hanno chiesto. Io credo che lui sia disponibile a collaborare, perché questo materiale va analizzato, va decriptato, insomma va lavorato, e da qui bisogna estrarre poi i nomi che saranno poi oggetto di indagine, di cui si capirà se si tratta di evasori fiscali o no. Gli sviluppi potrebbero essere interessanti, soprattutto perché dentro questa lista ci sono correntisti di Monte Carlo e del Lussemburgo, lo ripeto, che sono due località molto importanti. Nomi di spicco circolati? Al momento nessuno. Non sei credibile, però, perché come lo dici è chiaro che qualcosa hai visto. Vabbè, al momento nessuno, grazie, te le tieni per i prossimi, giustamente, ci mancherebbe, per i prossimi articoli. Grazie, Angelo Minculti del Sole 24 Ore. Allora, sì, i PM in effetti, che adesso io non ho mai difeso i PM a spada tratta necessariamente, abbiamo una giustizia che è un disastro dal punto di vista della lentezza nel civile oltre che nel penale, però visto che aprono inchieste su tante amenità, magari anche su questa, no? I PM spagnoli sono già al lavoro, qualcuno voglia lavorare, mettersi a lavorare, decriptare, capire, sono soldi rubati agli italiani, e visto che oggi mi scrivono molti ascoltatori che gli asili nido hanno aumentato la retta, la tassazione, perfetto, rubati anche al nostro welfare. Però vorrei chiuderla con una battuta, visto che citavo i Diabolik messi a rimborso spese da Livio Marrocco. Scrive un ascoltatore: le ricordo che i Diabolik sono stati acquistati a scopo didattico per affinare la tecnica. Traffico. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa, allora, la borsa è la vita, non è, è la vita. Meno 0,85% Milano, Parigi meno 0,30, Francoforte meno 0,17, Londra meno 0,07, poteva che essere così a Londra. L'America meno 0,41%, lo so, è tanti anni che faccio sta battuta su Londra, non mi sono ancora stancato, però quando fa meno 0,07 o più 0,07 mi piace. Le banche oggi realizzano, dopo il record toccato ieri da Piazza Affari, mai così alto il valore del FTSE MIB dal luglio del 2011, e qualche vendita ci sta. Banco Popolare meno 3,90, Intesa San Paolo meno 3,40, Mediobanca meno 3,20, Pop Emilia Romagna meno 3, Unicredit meno 2,30, Ubibanca meno 2%, Generali meno 1,30%, in controtendenza c'è leggermente il Monte dei Paschi più 0,50. Tra chi perde anche Mediaset, che pure aveva toccato un livello altissimo, 4 euro per azione, lo ricordiamo, meno 2,50%, poi Finmeccanica meno 2, Atlantia meno 1,5 e Azimut meno 0,90, Luxottica meno 0,60. Fiat invece è il miglior titolo, più 3,40, Pirelli più 2, Unipolsai più 1,50, Prismian più 1,40, Telecom Italia più 1,20, Buzzi Unicem più 1,1, G-Tech più 1%, come Snam, Rete Gas, Terna più 0,70, Iux più 0,50, come Saipem e appunto il Monte dei Paschi di Siena. Su cui dicevamo, è intervenuto anche il presidente di Intesa San Paolo, Bazzoli, dando ragione al presidente della Fondazione Calipo Guzzetti, devo dire spesso sono d'accordo i due e non c'è niente di male, sul fatto che le dichiarazioni di Profumo, Alessandro Profumo, presidente del Monte dei Paschi, ha dichiarato ieri che se non dovesse esserci, se dovesse fallire l'aumento di capitale del Monte dei Paschi, sarebbe minacciato l'intero sistema bancario italiano. Ieri Guzzetti e oggi Bazzoli hanno detto: non è così, non vedo rischi per il sistema, nessuno si augura che fallisca l'aumento di capitale, ma sono frasi eccessive, lo aggiungo io, non vedono rischi né Bazzoli né Guzzetti. Chiara Di Cristoforo, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, Fiat più 3,40, ma soprattutto Unipolsai, qui ci sono voci di mercato e anche voci in generale sull'offerta di Allianz, no? Sì, sì, il mercato è proprio appremiato questa notizia arrivata ieri sera dell'offerta di Allianz. Ieri il titolo è stato molto penalizzato, c'era il consiglio di amministrazione che doveva decidere di quella parte di portafoglio premi che Unipolsai deve cedere, come ha deciso l'antitrust. L'offerta a ieri era solo quella che poi è stata rifiutata dal consiglio di amministrazione, quindi si temeva che potesse arrivare una multa da parte dell'antitrust. Invece Unipolsai ha detto: no, abbiamo una nuova offerta, è quella di Allianz, in attesa e positiva, è stata giudicata dal mercato e è un'offerta che Unipolsai giudica adatta a soddisfare i requisiti antitrust. Una risposta definitiva ci sarà nel consiglio di amministrazione del 21 gennaio, però questo è bastato a rassicurare il mercato che oggi ha premiato il titolo. Finmeccanica invece si sono raffreddate, Finmeccanica oscilla se si surriscaldano le voci sulla cessione di Ansaldo e poi la joint venture oppure se si raffreddano. Oggi siamo nella versione fredda, mi sembra. Esatto, ieri eravamo nella versione calda e sulla stessa notizia oggi il titolo è sceso. Ieri si parlava di una possibile vendita della quota detenuta in una joint venture che produce missili, la MBDA, in cui Finmeccanica ha un 25%, ma oggi già questa ipotesi sembra tramontata, non sembra possibile perché di fatto Finmeccanica non ha mai dichiarato di voler uscire da quel settore e quindi di nuovo è tornata a scendere, come dici tu, comunque è un titolo particolarmente volatile. Allora, invece, oggi Atlantia cede l'1,5%, ma mi fa impazzire il motivo per cui cala, per l'ipotesi che ha ventilato, a mio avviso correttamente, il ministro Lupi, di dire, visto che continuano gli aumenti tariffari, visto che, come abbiamo scoperto, gli aumenti tariffari sono stati doppi rispetto all'aumento dell'inflazione in questi 12 anni, vi sarà uno sconto, un abbonamento con sconto per i pendolari del 20%, e la borsa vende, vero? Sì, la borsa vende su questa ipotesi di uno sconto del 20% per i pendolari che hanno il telepass con le tratte fino a 50 km, quindi non è che parliamo di un numero infinito di persone, ma tra l'altro ti dirò di più, oggi un report parlava di questo proprio come motivo della debolezza del titolo e diceva: non solo è difficile ipotizzare l'impatto reale sui gestori, ma è anche possibile, anzi noi riteniamo che il governo potrebbe avanzare delle proposte di compensazione per i gestori, anche se non a breve termine. Certo. Quindi insomma anche ecco questa notizia, prendiamola un po' così. Sì, teniamola un po' così, prendiamola un po' così, se vogliamo essere più corretti linguisticamente, prendiamola un po' così. Telecom poco mossa nel giorno del Consiglio di Amministrazione, anche se poi alla fine ha recuperato l'1,20%, novità da Telecom? Ma guarda, in realtà novità no, però è arrivato il comunicato stampa alla fine del consiglio di amministrazione proprio alle 5.20, quindi la borsa stava chiudendo e negli ultimi 10 minuti è salita dell'1,20%, anche se non ci sono notizie fondamentali. Sulla governance, sulla quale si aspettavano nuove decisioni, è stato avviato un gruppo di lavoro in vista del consiglio di amministrazione del 6 febbraio, quindi non ci sono novità in termini di nuovi consiglieri o di cambiamento delle regole interne. Sul Brasile non c'è nessuna offerta sul tavolo, se ne è parlato, sarà definita una procedura ad hoc per valutare come trattare l'eventuale vendita di alcune parti, ma anche qui niente di decisivo. Quindi... Allora, restiamo su questo e anche su Monte dei Paschi e BPM dopo il GR, chi dice che non si ricorda tante trasmissioni quando furono indagati i 95 consiglieri lombardi si sbaglia. GR. Al alle 18:07, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Chiudiamo anche la pagina di borsa. Una risposta però la devo ad alcuni sms, perché capisco che il cortocircuito quando leggiamo e raccontiamo alcune cose come la lista Falciani degli evasori, dei grandi evasori fiscali in mano alla magistratura madrilegna, il cortocircuito sia abbastanza automatico, in alcuni immediato, ma a mio avviso completamente sbagliato. E cioè a dire, ma perché dovremmo pagare le tasse se poi i soldi vanno per le spese della classe politica anche regionale? No, il punto è proprio opposto. Si fa la lotta all'evasione con le rogatorie, soprattutto sui grandi evasori e non solo sugli studi di settore degli artigiani del commercio, piccoli, ma dei grandi evasori, perché di solito chi ha i conti in Lussemburgo e Monte Carlo, così proprio, non è quello che non ci sta dentro negli studi di settore per un pelo. E allo stesso tempo si continua a denunciare e combattere una classe politica, quando lo è, in molti casi lo è, indegna, perché utilizza soldi pubblici per spese private anche misere, miserrime delle volte. Chiara Di Cristoforo, continuiamo con te. Ricordavi di Telecom, sì. Poco mossa, ma ci sono altri due titoli su cui vorrei concentrarmi. BPM, domani c'è la Popolare di Milano, la nomina del Consiglio di Gestione, e poi Monte dei Paschi, al di là delle dichiarazioni di Guzzetti ieri, Bazzoli oggi, ma ci sono nuove dichiarazioni di Viola. Sì, infatti sono le uniche due banche che hanno viaggiato in territorio fortemente positivo per tutta la seduta, hanno ripiegato sul finale e BPM chiuse praticamente sulla parità. Per la Popolare di Milano domani è l'ultimo capitolo del rinnovo dei vertici, quello che si è aperto con l'assemblea del 21 dicembre. Sarà nominato quindi il consiglio di gestione, con Giuseppe Castagna consigliere delegato. A questo punto, chiusa questa partita, potrà entrare in carica e affrontare le sfide che attendono la banca, a partire dall'atteso aumento di capitale da 500 milioni. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi, c'è questa lettera ai dipendenti scritta dall'amministratore delegato Fabrizio Viola, in cui sottolinea la necessità che nel capitale della banca entrino nuovi azionisti stabili che possano garantire il successo dell'aumento di capitale, e questo è bastato per far scattare un po' di speculazione sul titolo, che alla fine chiude con un mezzo punto di rialzo, ma era arrivato a guadagnare anche il 2% nel corso della seduta. Migliori e peggiori della seduta: Bialetti più 22%, PMS più 17%, Screen Service Broadcasting più 15%, Zucchi, effetto Buffon, continua, più 12,40%, fronte opposto invece Hi-Real meno 9,30%, Classe Editori meno 4,60%, Credito Bergamasco meno 3,90% e poco altro, Industria e Innovazione meno 4,90%. Grazie a Chiara Di Cristoforo, Radio Cori, Sole 24 Ore. Noi restiamo in tema di banche, ma in questo caso per non perdere di vista anche quello che di sbagliato fa l'Europa, non l'euro, vi prego, l'Europa e la gestione dell'Europa, l'euro non c'entra nulla. Insomma, il Comitato di Basilea ha approvato la versione definitiva del cosiddetto leverage ratio. Al di là del tecnicismo, pone un limite minimo al capitale che le banche devono detenere rispetto al totale dell'attivo. E vabbè, e questo è un passo importante per arrivare a Basilea 3. Però, da quello che abbiamo capito, ma adesso ce lo facciamo spiegare, mi sembra, già Basilea 3 a me sembra una follia, in un momento in cui l'Europa è stagnante, vai a restringere i modi e i termini con cui le banche possono concedere credito, soprattutto alle piccole e medie imprese. Però, va a premiare anche le grandi banche globali, che spesso, diciamo, stanno nel centro-centro-nord dell'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Perché nel weekend il Comitato di Basilea ha uniformato le regole internazionali e ha ammorbidito le richieste per gli istituti di credito. praticamente il rapporto tra capitale di una banca e totale degli attivi, cioè i prestiti, i finanziamenti, i prodotti finanziari detenuti, è fissato al 3%, indipendentemente dalla rischiosità degli attivi, un livello che è considerato molto basso perché molti osservatori indicano il 10% come soglia prudenziale. Io però potrei anche dire, vabbè, se i criteri sono meno stringenti, le banche potrebbero prestare più soldi anche alle imprese. E invece mi sembra, professor Marco Nado, docente di economia degli intermediari finanziari, buonasera a lei professore, buon anno all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore, mi sembra che questo avvantaggerà solo le banche che potranno fare più investimenti in prodotti finanziari, ho capito bene? Diciamo che la norma è stata fatta seguendo le richieste delle banche. Il 3% di capitale vuol dire che le banche sono autorizzate a lavorare con 97 euro di debiti rispetto al totale dell'attivo, e questo naturalmente aumenta la convenienza o l'incentivo ad assumere rischi. Ma è vero che, tra l'altro, io ricordo che il direttore della Confcommercio Aquila, che lunedì ne abbiamo parlato, un caso drammatico, ci mancherebbe, di esasperazione, da non imitare, da non usare come modello, mi riferisco a Celso Cioni, che si era barricato nella sede locale della Banca d'Italia minacciando di darsi fuoco. Tra le cose che indicava era proprio Basilea come una delle cause che stanno strozzando i commercianti, le piccole e medie imprese. Noi abbiamo fatto un'intera puntata lunedì proprio sul non credito delle banche alle piccole e medie imprese. Ma è vero che la nuova impostazione, lasciamo stare i tecnicismi, favorirebbe banche molto sbilanciate sul fronte della leva finanziaria? La leva finanziaria è quella che poi ha creato la bolla e la crisi del 2008, giusto per capirsi? Tipo Deutsche Bank, Credit Suisse, Credit Agricole, che hanno livelli di leva e di rischio quindi doppi rispetto a Unicredito Intesa San Paolo? Esattamente così. Più alta è la leva e più forte è l'incentivo delle banche ad assumere rischi anche di carattere speculativo, insomma. Dove speculativo non è necessariamente una parolaccia. Comunque è un'attività diversa da quella di prestito. C'è una questione elementare, diciamo. Dire che più il capitale della banca e meno più o meno il capitale della banca e meno si concede il credito non sta in piedi dal punto di vista teorico, dal punto di vista di cui si insegna all'università, perché il capitale è il passivo, i prestiti sono l'attivo, quindi c'è qualcosa che non torna. Però guardi che questo che sto dicendo non lo dico soltanto io, l'ha detto un famoso economista tedesco che si chiama Helwig, che sostiene, tra quelli che sostengono, che il capitale delle banche deve aumentare in modo significativo. In tempi tengo conto del fatto che si è per troppo tempo tollerato una situazione inammissibile, però questa dovrebbe essere la tendenza. Ecco, mi scusi, però, siccome le cose non capitano per caso, secondo lei dietro, insomma, qui hanno vinto le banche del centro-nord Europa, io non voglio fare complottista, figurati, combattiamo tutti i complotti, però poi quando arrivano le notizie un ragionamento va fatto, il cui prodest, cioè chi è che se ne avvantaggia? Se Deutsche Bank, Credit Suisse, Credit Agricole hanno livelli di leva doppia rispetto a un credito Intesa San Paolo, io penso che se ne avvantaggiano le banche francesi e tedesche, chiedo però. Assolutamente. E lì non c'è stata una posizione delle banche, della politica italiana, no? Delle banche in che senso? No, dico, l'Italia la sua voce non l'ha fatta sentire, no? Chiedo, perché mi sembra che vada tutto contro il nostro interesse. Le nostre banche hanno un livello di leva più basso e quindi non se ne avvantaggiano. Abbiamo un problema di prestiti alle piccole e medie imprese che ne risultano penalizzate. Certo, ma non c'è da stupirsi che nella discussione internazionale il peso della Germania alla fine sia superiore a quello dell'Italia. Una misura che sarebbe stata comunque tardiva per introdurre il limite all'indebitamento delle banche fu proposta nel 2005-2006, non ricordo, al Comitato di Basilea, e venne brutalmente stoppata sulla pressione delle banche francesi e tedesche con la Commissione Europea, che si allineò immediatamente facendo anche fare una figuraccia al presidente di allora, che era l'olandese Nottwelling. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei. Adriana, mi senti? No, è caduta. Allora facciamo una cosa, andiamo con il traffico e poi riprendo anche Adriana Ceretelli. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. È un paio di giorni che le linee telefoniche sono molto disturbate, non so come mai, chiedo scusa agli ascoltatori. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Professor Nado, mi spieghi una cosa però, come se ne esce? Perché mi sembra che con questo passaggio ormai lo posso chiamare cappio, il cappio di Basilea 3 si stia stringendo a questo punto, cioè è pensabile una retromarcia? Allora, la proposta del Comitato di Basilea viene presentata come una specie di cantiere aperto, quindi la questione del 3% non è definitiva. Quindi la speranza è che strada facendo si irrobustisca la corrente di pensiero che vuole rafforzare i vincoli di capitale per le banche. E aggiungo a proposito del problema gravissimo che lei ha citato prima, e cioè il fatto che Basilea sarebbe responsabile della stretta creditizia, io credo che ci sia anche un problema una scusa delle banche rispetto ad una situazione che vede l'attività di prestito sempre meno cioè le dice viene usata, anche è facile dire che la colpa è di Basilea, sì, così come faccio dire che la colpa dell'euro, faccio dire che la colpa di Basilea. Adriana Ceretelli, abbiamo recuperata in collegamento l'editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Adriana, che oggi scrive una cosa molto bella sul Sole, molto bella per me perlomeno, però un commento su questo lo vorrei. Adesso veniamo ai compiti che l'Italia ancora non sta facendo in Europa, ci ha superato pure la Francia che quanto a riforme era un fanalino di coda. Però su questo poi la sensazione, non l'euro, ma che ci sia un'Europa sempre tedesco, franco-tedesca, c'è anche quello che ricordava il professor Onado su Basilea 3, no? Che non va usata come scusa, certamente, però. Certamente, ma direi che più che un'Europa franco-tedesca c'è un'Europa franco-tedesco-francese, perché ormai il rapporto franco-tedesco non è più paritario, direi che la Francia è al rimorchio della Germania. Detto questo, non c'è dubbio, e questo è un rischio implicito per l'Italia, che il fatto che Hollande si sia deciso a cominciare seriamente a fare le riforme, a rilanciare l'economia, può in prospettiva non solo crearci delle difficoltà perché si mettono in evidenza i nostri ritardi, ma anche la nostra possibilità di influire. No, ci sono grossi problemi di collegamento con Adriana Ceretelli. Intanto resto con il professor Marco Nado, speriamo di prendere la collega, perché ripeto, oggi il suo fondo citava l'Italia come unico paese fermo al palo sulle riforme economiche. Professor Nado, da questo punto di vista però, ammesso e non concesso che poi l'Europa possa compiere una leggera sterzata, e ha ragione nel ricordare che le banche però italiane non devono usare Basilea 3 come scusa, a me sembra che ci sia un altro elemento preoccupante, e cioè dopo passata lo shock, la paura del 2008, 2009, 2010, qui si torna a dire che la leva finanziaria non è una cattiva cosa. Certo. Cioè quella che ha creato la crisi, cioè, nel senso, da questo punto di vista, professore. Il fatto che più passa il tempo e più il potere di lobby delle banche si sta consolidando, perché queste riforme dovevano essere attuate quando la crisi era ancora, il ricordo della crisi era ancora via, ancora vicino. Qualcuno aveva detto bisogna farlo prima che tanto che c'è ancora il terrore negli occhi dei banchieri. E ormai a forza di salvataggi, di fondi a tasso zero dato dalle banche centrali, il terrore tanto via da un pezzo. C'è più il sorriso che il terrore. Adriana Ceretelli, vediamo se riesco a tenere in linea. Tu oggi però, al di là poi dell'Europa, trazione tedesca, con la, dicevi la Francia è a rimorchio, la battuta è facile, però in Francia si rimorchia, mi sembra di poter dire. In molti sensi. In uno solo, perché è per uno solo per ora, da quello che sappiamo. Però detto questo, la Francia sarà anche a rimorchio. Ma è vero che Hollande, visto che di lui stavamo parlando, ha annunciato in una conferenza stampa in cui si parlava di altro, però 30 miliardi di tagli agli organi sociali e alle imprese, riduzione delle imposte societarie, meno pastoie burocratiche, l'alleggerimento della normativa sul lavoro, e ha già tagliato di 15 miliardi di euro la spesa pubblica quest'anno. Ma è possibile che perfino la conservatorissima Francia ci possa superare, Adriana? Ma ci ha già ampiamente superato, perché noi purtroppo abbiamo la cattiva abitudine di annunciare le riforme e di non farle mai o quasi mai, mentre loro magari per lungo tempo temporeggiano, ma poi quando si decidono. Ed è così che naturalmente saltano poi o si preparano a saltare sull'autobus della crescita e del ripristino della loro influenza politica in Europa, perché prima credo che siamo stati interrotti appunto da queste cattive comunicazioni, ma è quello il punto, perché per l'Italia c'è un doppio rischio, sia che la Francia torni a crescere ed elimini le divergenze che ha accumulato negli anni con la Germania, e che quindi l'asse franco-tedesco torni a funzionare come si deve, e questo naturalmente chiude il nostro spazio anche politico in Europa. Non dimentichiamoci che arriva il semestre, e spesso nel passato i nostri semestri sono stati semestri di successo, nel senso che siamo stati noi presidenti dell'Unione a lanciare il mercato unico, noi presidenti dell'Unione a mettere sui binari l'Unione monetaria, l'euro insomma. Quindi e in questo momento non c'è dubbio che l'Europa potrebbe avere anche la possibilità di lanciare una nuova grossa iniziativa, però con un'Italia che è in difficoltà perché non cresce, è in difficoltà perché il debito, è in difficoltà perché non fa le riforme, con questa Italia come si può pensare di arrivare a un semestre europeo con un qualche peso e una qualche influenza politica? Sì, tu hai toccato un tema importantissimo, nel senso che noi abbiamo una speranza, se la Francia continua avere problemi, adesso la dico in maniera un po' brutale, e si sente vicina all'Italia, perché sennò tu non riesci a porre un limite allo strapotere della direzione tedesca di questa Europa. Se però la Francia riparte e non si sente più vicina al gruppo dei paesi, della come la chiamano gli inglesi, l'area dell'olio d'oliva, no? Spagna, Italia, ma si sente di nuovo più vicina al Reno, e quindi dal Mediterraneo torna all'asse renano, a quel punto è dura, perché i francesi vogliono da sempre sentirsi simili e identici ai tedeschi e non agli italiani, questo può anche essere per alcuni versi comprensibile. Quindi politicamente si creerebbe poi una debolezza italiana a livello europeo, che in questo momento invece... Ma poi io direi con un aggravante rispetto a tutto quello che tu dici, perché i paesi dell'olio d'oliva, come si è chiamati, stanno tutti migliorando, stanno tutti dopo questa cura da cavallo che hanno subito, stanno tutti tornando a crescere, la Spagna è tornata ad attirare investimenti grazie a una riforma del mercato del lavoro interessante, che è piaciuta agli investitori. Quindi noi ci troveremmo come proprio classico vaso di coccio in quelli con intorno tutti quelli di ferro, perché da una parte certo i grandi paesi, le grandi potenze, dall'altra anche quegli altri, la stessa Spagna diventerebbe naturalmente un interlocutore privilegiato della Germania. Non ci dimentichiamo che la Germania ha fatto investimenti bilaterali proprio in Spagna e Portogallo per cercare di stimolare la loro ripresa. Quindi diciamo, noi stiamo giocando davvero con il fuoco in questo momento. Stiamo giocando con il fuoco, hai ragione Adriana Ceretelli, in collegamento con noi da Bruxelles, che ringrazio, così come ringrazio il professor Marco Onado. Visto che qua parliamo di tutto, per favore, lo dico al premier Enrico Letta, lo dico a Matteo Renzi, che è uno dei possibili candidati a fare il premier, a tutti quelli che si candideranno, attenzione, la riforma della legge elettorale va bene, altre amenità, boh. Però attenzione, la Spagna ha fatto le riforme del mercato del lavoro, le sta facendo la Francia, il Portogallo riassorbe i disoccupati, il rischio è grandissimo, l'Italia non può essere l'ultimo fanalino di coda. Andate in Europa, portate le riforme, cercate, diciamo, di capire qual è il futuro di questo paese e non solo quello vostro, diciamo, di breve termine. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.